un ritratto di donna non si fa, con due colori è un'idea. Da discutersi, ti sorprende ma un'anima ce l'ho, e posso anch'io volere o no, però io vedo e sento, lavoro e penso che il mio domani è un giorno immenso. Io canto e amo liberamente e yeah.